primo lo facciamo insieme. Però siccome io devo, quando sono follower, devo, l'ultimo comando che ho avuto, devo portarla avanti, no? Siccome tu mi hai fatto fare la base e il triple step, il primo lo facciamo insieme, tu mi hai, giusto, lo sto facendo con te io il primo. Sì, sì, sì. Giusto? Ma saresti perché io, per esempio, se facciamo il pezzo. Ma tu cammini. Allora io seguo la tua guida, tu hai fatto il primo passo del cammino, io comincio a camminare con te. Okay. Invece tu, se tu mi guidi per triple, io devo. Io ho avuto il comando dell'ultimo comando avuto connessa e il triple. Okay. Io ho l'obbligo di continuare con il triplo. Okay. Soltanto che essendo connessa sono costretta poi a. Okay. Girare. Quindi la spiegazione è che. Sì, pensavo... no, ma è giusta perché è giusto, cioè è da dire prima, è da dire che tu perché continua col triple step la follower e non fa altro? Perché l'ultimo comando che ha avuto è stato quello, è stato il triple step. Esatto, perfetto. Quindi è giusto. Sì, sì. Perché tu potresti anche lanciarmi, cioè darmi l'input di girare, io devo girare facendo tripli per lo più. Uh-huh. In teoria dovrei, no? Sì, sì. Ok. Giusto. Sì, sì, giusto. Poi so, a un certo punto sono libera, però la prima cosa che quando tu mi lasci libera sì, deve essere continua. L'ultimo passo che mi hai guidato tu, in certo. Teoria. Certo, certo. Giusto? Sì, sì. A livello teorico così, no? Sì, sì. No, lo sapevo che tu vuoi andarmi là. Ok. Ok. Allora. Quindi rispieghiamo il zoom out. Questa lezione quasi notte andiamo a luce che tra ripassata anche prima. Quindi non sarà tanto. No. Posso semplicemente dare. Oh! Esatto. Ok. Dal send out. Allora sarà.